accumulano, rimangono indietro fino a cominciare a ritardare in maniera patologica i pagamenti e a diventare morosi. Questo capita a qualche famiglia. L'autorità per l'energia mi piace patologica, vedi? Cuore denari, d'altronde lo sai che trova ogni giorno dei fil rouge. Fisiologico, patologico. Io sono fisico, logico, fisiologico. In questo mondo digitale non trovo un filo logico. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il vicino è mio nemico, non lo posso sopportare. In un modo o nell'altro io lo devo eliminare. Al vicino puzza il fiato e gli puzza non le ascelle. Beh, speriamo che nessuno di noi veda il proprio vicino come un nemico addirittura da eliminare, ma al tempo stesso sappiamo che in molte occasioni proprio nei confronti dei vicini di casa, nei nostri condomini si consumano vere e proprie battaglie. All'inizio sono un po' silenti, poi però arrivano ad esplodere in liti più o meno accese. Qual è la prima causa di queste liti, lo sai? Lo immagino, i rumori molesti. Esattamente, e chiaramente sgraditi. I tacchettini, esatto, il cane che abbaia, la musica a tutto volume. Emma provoca qualche disappunto nel vicino di casa. Io ho un vicino che ha un'aureola, è luminosissima. Vogliamo allora, insieme a quello di Nicoletta, anche i vostri di racconti all'800240024. Avete litigato con un vicino per un rumore molesto? Qual era il rumore che vi infastidiva in particolar modo? In che orario? Come vi siete comportati? Oppure chissà, siete stati voi stessi ad essere accusati di essere vicini di casa troppo rumorosi? Anche in quel caso vogliamo sapere come è andata a finire. Naturalmente vi daremo in questa prima parte di Cuore e Denari qualche consiglio utile per trovare una soluzione. Spesso il tavolo più appropriato per parlarne è l'assemblea di condominio, il coinvolgimento dell'amministratore di condominio. Insomma, cercheremo di andare proprio al consiglio pratico, come sempre. E insomma, lunga vita a noi e ai nostri vicini, esatto, diciamo così, esatto, dai, infatti. Deborah, tra l'altro, a proposito di lunga vita, oggi parleremo dell'elisir di lunga vita, che esiste. La sua formula già la conoscevamo, ma l'abbiamo dimenticata. Siamo quello che mangiamo, lo abbiamo sentito ripetere e ripetuto tantissime volte, e la ricerca concorda nell'affermare che sarà la qualità di quello che riusciremo a mettere nel nostro piatto che farà la differenza in termini di anni di vita, ma soprattutto di qualità di vita di quegli anni. Oggi torniamo a parlare di alimentazione e lo facciamo proprio per sottolineare il legame tra cibo e longevità, e lo facciamo con uno dei massimi esperti in materia, il professor Walter Longo, che è direttore dell'Istituto di Longevità di Los Angeles e direttore del programma di ricerca oncologia e longevità LIFOM di Milano, che verrà proprio a raccontarci i risultati delle sue ultime ricerche qui in diretta a Cuore Denari. Nel frattempo, qual è secondo voi la formula della longevità? Da quali ingredienti è composta? Dateci un po' la vostra, poi il professor Longo ci darà la sua, magari coincidono. 800 24 0024. Ecco, sì, diciamo che se il rumore è provocato dai ladrini in casa, questo non è uno di quelli con cui puoi prendersela con un vicino, no? Perché non fanno solitamente rumore. Non no? Tanto. Allora, vi è sembrato di sentire un rumore, o meglio ancora, siete sicuri che il vostro vicino di casa stia facendo rumore? Sono un paio di tacchi a notte fonda, un televisore ad alto volume, una festa che dura fino a tardi. 800 24 0024. Oggi vogliamo collezionare i racconti dei rumori molesti dei vostri vicini nei vostri condomini. Vogliamo sapere anche come gestite la situazione, perché siete tra quelli che si lamentano sempre al primo rumorino, proprio non avete la benché minima pazienza, oppure aspettate, pazientate, poi esplodete, oppure, e anche in questo aspetto è molto interessante, è capitato a voi di essere stati accusati di essere condomini troppo rumorosi? Scrivetecelo anche in un messaggio al 349 238 6666 oppure andate a movimentare il dibattito sui nostri social network, li trovate a partire dalla pagina di Cuore Denari sul sito di Radio 24. Noi oggi affrontiamo questo argomento che è non tanto divertente, ma veramente Vicente Spinoso con Giuseppe Bica, presidente della NAMMI, l'Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie. Lei vive in un condominio tranquillo oppure anche lei? Il mio condominio non fa testo, perché è un condominio splendido di persone anche di una certa età avanzata, e le nostre riunioni si fanno a casa di uno, a casa dell'altro, con il tè, i pasticcini o la torta fatta dal condomino di volta in volta, quindi è veramente pacifico. Speriamo con farina integrale, Giuseppe Vica. Allora, visto che avete già introdotto il tema cibo, vi dico anche che Armando da Bologna ci segnala che non sono solo i rumori a creare qualche disappunto tra vicini, a volte anche gli odori di fritti, cibi esotici, e non posso certo impedire di cucinare liberamente, ci racconta il nostro ascoltatore bolognese. Ma in realtà, Bica, rimaniamo al tema dei rumori. Voi come Anam avete condotto un monitoraggio che rileva che i rumori in condominio sono la prima causa di litigiosità condominiale. Così ci spiega, sì, come avete certo condotto questa indagine. Beh, questo monitoraggio. Noi in Anammi abbiamo un servizio di consulenza destinato ai nostri amministratori di condominio. Lavoriamo circa 21.000 richieste di consulenza mensili, dovuta a 13.000 iscritti circa, quindi è un vasto campo dove poter fare anche statistica alla fine. E quella delle segnalazioni sulle liti condominiali, circa 10.000 delle liti condominiali, 3.000 sono causate dalle emissioni di rumori. Quindi del 30% insomma. Sì, circa il 30%. Quindi quali sono i motivi della diatriba? Sicuramente i decibel troppo alti e i suoni sgraditi. Cosa distingue, presidente Bica, dal suo punto di vista esperto, le liti che scoppiano per via dei rumori dalle altre liti? Sono più difficili da gestire? Certo, perché? Perché i contrasti scoppiano proprio quando la pazienza ormai è al limite, quindi si sopporta e il perdurare del rumore crea poi la lite vera e propria. Anche, però insomma è difficile, perché non c'è il dolorimetro, non c'è il fastidiometro. Ci sono persone che magari sentono il bambino che è piccolo, che e il pazientometro anche non c'è, magari che corre un po', gioca a palla, magari nel... Hai visto il messaggio, sì, che ci è arrivato? E subito magari disturba il sonno di una persona anziana che nel pomeriggio va a riposare, certo. Però insomma secondo me ci vuole anche un po' di flessibilità, esatto, di pazienza. Che è quella che chiederebbe questa mamma che ci scrive al 349-238-6666, che subito segnala: volevo sapere le lamentele dei vicini che sentono il mio bambino correre, è davvero molesto, lo dice lei, ha 4 anni, pesa 16 kg, corre con i calzini sul parquet, i miei vicini non hanno bambini, abito in un piccolo condominio di persone un po' avanti con l'età. Bisogna venirsi incontro, sì, la mamma, fermare magari il bambino quando corre in orari magari non opportuni, esatto, certo, un conto è un bambino che corre, magari si può avere pazienza, un conto è un trapano che magari per, che ne so, costantemente ti tormenta i timpani. Detto questo, il disagio dovuto al rumore genera anche più stress, Nicoletta me lo insegna, no? Lo guardo questo problema dal punto di vista della donna di cuore, e questo maggior stress rende anche più difficile parlarsi con civiltà fra condomini nelle sedi opportune. Presidente, è così? Certo, la sede opportuna sarebbe quella dell'assemblea dove ci si incontra, perché sempre più raramente ci si incontra sul pianerottolo di casa, quindi il motivo e il momento in cui si può riscontrare qualche lamentela è proprio l'assemblea di condominio. Chiaramente il rumore è una delle emissioni contemplate dall'articolo 844 del Codice Civile, che recita che sono tollerabili nella normale tollerabilità, nel contesto, cioè presto fatto, in una strada molto rumorosa il rumore di un trapano per esempio potrebbe anche essere tollerato, diverso il caso in cui ci troviamo in una zona residenziale, certo. Quindi bisogna sempre commisurarsi all'ambiente in cui avviene l'immissione stessa. Allora, certo che io stavo pensando mentre il presidente Bica rispondeva che dover fare una trasmissione su questo argomento ha dell'incredibile. Ne siamo veramente diventati una popolazione di, non dico incivili perché è esagerato, però veramente facciamo molta fatica a comportarci con del buon senso. A me sembra anche abbastanza normale non fare del rumore in orari improbabili. È difficile che la lavatrice la attacchi a mezzanotte, così come la lavastoviglie, così come mettermi a camminare con i tacchi, a meno che non arrivi a notte tarda, ma mi tolgo le scarpe subito. E invece questi problemi ci sono. Ce li state raccontando al 349-238-6666. C'è anche chi lavora di notte, peraltro, proprio perché c'è questa famosa differenziazione fra allodole e gufi. Anche questo è un insegnamento che mi arriva dalla parte di cuore. E però, insomma, bisogna anche vedere che lavoro si fa, perché se uno sta appiccicato davanti al computer, magari è chiaro che non è rumoroso. Se poi si mette a mangiare, a cucinare così, oppure fare il caffè fa rumore per lavorare, insomma la casistica è molto ampia. A proposito di casistica, presidente, andiamo proprio alla vostra graduatoria, che ha tra virgolette del folcloristico e del divertente, ma magari appunto ci possiamo riconoscere anche in queste situazioni. Quali sono appunto le circostanze più diffuse di fastidio? Qual è il rumore che proprio è il più insopportabile per coloro che vivono in condominio? Classifica in anammi, quindi il primo è il ticchettio di tacchi, soprattutto femminili, non conosce rivali, questa è pari al 25% delle segnalazioni. Ma quante donne, io vorrei che mi scriveste, in quante camminate con i tacchi dalla mattina alla sera? Io non so tu, Nicoletta, io le scarpe me le tolgo subito appena arrivo a casa. E evidentemente, a parte il ticchettio del tacco, può essere anche magari una ciabattina un po' magari rumorosa. Magari quelle col tacchetto, con il pompon. No, perché anche lì veramente è curioso. Dopo il ticchettio dei tacchi, guardi, presidente Bica? A pari merito, lì abbiamo l'abbaiare dei gatti. Ecco, nonostante la riforma ultima del condominio, la legge 220 del 2012, ammetta gli animali in condominio, il disturbo causato dall'urlato degli amici a quattro zampe, o peggio ancora dal pianto dell'animale lasciato solo per ore, è una delle litiche più di frequente sfocia in denunce e cause giudiziarie. Questo perché evidentemente l'appartamento non è il luogo ideale per far vivere un cane, soprattutto in un terrazzino magari di pochi metri quadrati rinchiuso tra i suoi bisogni. È veramente scandaloso questo. Quindi l'amore per i cani sì, va bene, ma bisogna avere proprio rispetto dell'animale stesso, certo. Quindi chiuderlo in un balconcino con tutto quello che comporta per avere i vicini è veramente... No, però poi tra l'altro stavo pensando, se infastidisce un vicino di casa, immaginiamo il proprietario, sarà anche più rumoroso quell'abbaiare, no? Ma evidentemente non è che lo possiamo scaraventare. Ma fuori molto dal spesso balcone. È lasciato solo. Ah, ecco, certo, durante la giornata spesso, che si manifesta di più il problema. Altre curiosità ce le ha Nicoletta per lei? Sì, ho delle curiosità, diverse curiosità, anche perché gli ascoltatori ci suggeriscono talmente tante situazioni da cui. Allora, ad esempio, Nicola, che ci chiama Amori miei, per cui lo leggo subito il messaggio, già ci ha conquistato. La priorità immediata. Amori miei, Nicoletta e Deborah, sono tenore. Oh mamma mia, lui non a che ora posso studiare cantando secondo le normative in Italia? Giriamo subito la domanda al nostro esperto. Qua. Guardi, in linea generale, tutto si può fare e contemporaneamente nulla è possibile farlo se disturba gli altri. Non c'è un orario in cui è possibile disturbare il vicino o i terzi coinvolti nel condominio. Quindi il fatidico orario di riposo è una chimera. In realtà nessuno si deve permettere di disturbare gli altri, qualunque sia l'orario in cui avvenga, certo. Questo. Immagino anche che magari in circostanze come queste, in cui c'è una persona che lavora in casa e la voce e la musica è lo strumento di lavoro, magari si dovrebbe correre a ripari con un'insonorizzazione adeguata. Dobbiamo fare una puntatina. Guarda, una puntata, ecco. Ne partorisce tre ogni volta. E a proposito di suoni, di rumore, penso, abbiamo parlato dei bambini, ma anche le persone anziane, che a volte hanno qualche problema d'udito, e questo le porta a tenere il televisore molto col volume alto. Anche questo rumore è entrato nella vostra classifica, dottor Bica? Sì, è il quarto. Il terzo è il suono della lavatrice, voluto soprattutto a causa delle tariffe più economiche dell'orario. Che in realtà si sono vanificate negli ultimi anni, per sì, tutta una sì, serie, esatto, che non ha neanche molto, più molto senso, modesto, esatto, certo, più fa fare quella scelta lì. Io la lavatrice la faccio di sera perché sono la sera tardi che arrivo a casa, o al limite la posso concentrare nel fine settimana. C'è invece chi ha ancora la convinzione che abbia un risparmio consistente. Allora, a proposito delle attività proprio di lavoro o di studio, per esempio chi studia pianoforte è obbligato necessariamente a fare le prove, quindi un buon tappetino anecoico e l'ambiente preparato evita il problema. Allora, sentirei gli ascoltatori. Sì, ma ti dico che abbiamo trovato anche la nostra amica che ci ha scritto un messaggio. Tu hai chiesto, vorrei sapere chi porta i tacchi. Ci sono tacchi plateau 10 in su tutto il giorno. Grandissima, bene, e se è contenta lei, siamo contenti anche per i suoi vicini che non si lamentano. Comincerei a sentire gli amici da casa che si sono trovati naturalmente coinvolti in circostanze come quelle che stiamo elencando questa mattina. Il tema è capire come le hanno risolte, visto che a parte fare l'elenco dei rumori che potrebbe essere teoricamente interminabile, ci serve invece l'elenco delle soluzioni. Massimo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Cosa le è successo? Ma io sono un pilota, quindi per una compagnia aerea, quindi mi capitava tempo fa di alzarmi molto presto al mattino perché dovevo presentarmi in aeroporto verso le 6:30 così, e il signore del piano di sotto mi ha denunciato in quanto mi facevo la doccia a quell'ora. L'ha denunciato intanto in presso che sede, Massimo, non l'è neanche venuto a parlare? No, è venuto a parlare con me, però ovviamente non potevo diciamo non farmi la doccia al mattino prima di andare a lavorare, e quindi io ho continuato con i miei, non è che ho l'abitudine di cantare sotto la doccia, ovviamente faccio una doccia normale, 10 minuti e via, 5 minuti e via, per svegliarsi anche per andare poi. Tra l'altro, mediamente a che ora, Massimo? No, perché per capire quanto potesse essere intenso questo fastidio. Mediamente poteva succedere alle 6 del mattino, alle 7. 3-4 volte la settimana, non tu, 3-4 volte la settimana alle 5 del mattino. Ho capito. Allora, Massimo, ma a parte il fatto della denuncia, che magari vabbè ci sta, se uno c'ha tempo anche da perdere per queste cose. La questione è che il giudice di pace l'ha condannata. Esatto. In che cosa? L'ha condannato e abbiamo dovuto pagare perché diciamo ci eravamo opposti a questa denuncia sia il proprietario di casa perché era in affitto ed io, e siamo stati condannati a pagare 1.000 euro di danni. Di danni? Presidente Bica, qua veramente surreale. È surreale questa situazione, però si arriva anche a questo. Quante di queste contestazioni per rumori molesti da parte di condomini arrivano addirittura sui tavoli dei giudici di pace, secondo quello che potete appurare moltissimi, voi? Moltissimi, però ecco, la cosa essenziale è che bisogna determinare il luogo dove avviene, un condominio, quindi voglio dire, se proprio non si vuole sentire alcun tipo di rumore, alcun tipo di missione, sicuramente non è quella l'abitazione indicata per chi soffre di questi problemi. Di questa ipersensibilità all'udito. Il condominio ovviamente ha questi problemi. Senta, Presidente Bica, allora diamo un po' la lista delle raccomandazioni da seguire nel caso in cui ci troviamo, sia come vittime di queste situazioni, sia anche magari come autori, nostro malgrado, di rumori che infastidiscono gli altri, ma ammettendo di essere delle vittime di un rumore particolarmente insistente e fastidioso che ci rende la vita impossibile in casa nostra. Chiaramente facciamo riferimento a quelle persone che stanno in casa tutto il giorno, perché immagino che chi magari esca la mattina presto come me, Nicoletta, arrivi la sera tardi, neanche ha tempo di concentrarsi sui rumori degli altri. Che cosa si deve fare? Allora, chiaramente la prima cosa è andare a fare una chiacchierata amichevole con il vicino molesto. Se questo proprio non ne vuol sentir parlare, si deve addirittura all'amministratore di condominio rappresentare la situazione. E che potere ha l'amministratore in questa situazione? Guardi, sono tutto quello del ruolo di mediatore, perché in realtà non ha alcuna responsabilità né è possibile mettere in atto delle azioni correttive, perché l'amministratore amministra le cose comuni, non certo le parti private dei condomini. Però l'amministratore in questo suo ruolo di mediatore può sicuramente risolvere il problema. Tra l'altro anche la legge prevede che prima di arrivare a una causa, quindi a una denuncia, si instauri un rapporto di mediazione, un procedimento nuovo che permette molto spesso di risolvere il problema senza arrivare alla giudiziaria. Hanno paura i condomini molesti dall'amministratore di condominio quando arriva nel tentativo di mediare? Ma in realtà la conoscenza specifica che si ha oggi e i mass media così istruiti sul settore fanno in modo che il condominio non sia per niente intimorito, anzi è difficile che l'intervento dell'amministratore risolva il problema quando ci abbiamo davanti delle persone che sono soprattutto ineducate, perché il rapporto e il rispetto degli altri dovrebbe essere la guida essenziale in questa, certo, in questo rapporto. Allora, abbiamo tra un istante il caso di Alberto da Parma, che ci sembra particolarmente delicato, per cui gli vogliamo dare tutto lo spazio che merita. Direi di fare velocemente i mercati finanziari. Vediamo un po' oggi la Grecia, un vicino di casa europeo. Brava. Un po' molesto ultimamente, e poi torniamo subito dopo insieme, tra poco. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. A me le altre acque non fanno effetto. Invece Rocchetta mi depura. Perché Rocchetta vale di più. Cuore e denari. Dai, forza, se le liti condominiali avvelenano la vostra vita come gli schiamazzi, i rumori molesti mandano in fumo il vostro benessere, dai, non prendetevela troppo, fate un bel respiro, andate a sentire la puntata di ieri sullo yoga e soprattutto pensate che i condomini cambiano e che ne incontrerete di nuovi, dato che, questa è una buona notizia, potreste vivere sino a 100 anni e più, felici, contenti e sani. Di salute e longevità, come anticipato, parleremo oggi nella seconda parte di Cuore Denari con un grande esperto, il professor Walter Longo, direttore dell'Istituto di Longevità a Los Angeles. L'abbiamo catturato e di passaggio a Milano. Intanto voi potete raccontarci qual è l'elisir della vostra lunga vita. 800 24 0024, raccontatecelo, a tra poco. Anche un po' un passo da maresciallo. Beh, questo. Certo che se ci fosse questo dalla mattina alla sera, anche 5 minuti già non li sopporti più. Comunque io e Nicoletta i tacchi appena rientrate a casa ci ritogliamo, quindi se qualcuno volesse venire a contestarci il nostro essere un po' moleste, non può appellarsi al nostro tacco. Detto questo, Giuseppe Bica con noi stamattina, presidente della NAMI, l'Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Stiamo parlando, abbiamo fatto la lista, anzi l'ha fatta la NAMI, dei rumori più molesti, quelli che infastidiscono di più chi abita in condominio. C'è chi naturalmente un po' per carattere, perché ha sempre voglia di far polemica, non sopporta nulla. Ci sono invece delle situazioni davvero ingestibili, persone con le quali non si può parlare perché pretendono di vivere in un appartamento come se vivessero da soli, come se in quell'edificio non ci fosse nessun altro, e quindi quelle sono davvero situazioni difficili da gestire. Si possono portare all'attenzione dell'amministratore di condominio, all'attenzione dell'assemblea di condominio tutta. Ci si può appellare all'articolo 844 del codice civile, come ci diceva Bica poco fa, che dice: l'immissione non può essere impedita a meno che non superi la normale tollerabilità rilevata nel contesto di riferimento. Il tema è che non è facile definire i parametri di ciò che è tollerabile e ciò che non lo è, ma sentiamo il caso di Alberto da Parma, che ha anche una situazione di salute un po' delicata e quindi fa proprio fatica a gestire il comportamento di un suo vicino. Alberto, benvenuto. No, io ringrazio prima di tutto, perché la mia è una piccola richiesta anche di aiuto, per un consiglio. Io sono un signore di 53 anni, abito in un condominio di piccole dimensioni, perciò 14 appartamentini dove la vita sembrava essere molto più tranquilla di quella che non è in realtà. Io ho piccoli problemi di cardiopatia, un soffio al cuore, insomma non cose drammatiche, però devo in parte minimamente tutelarmi. Ho all'interno di questo piccolo condominio 3 cani che ormai mi rendono impossibile il riposo a volte anche di notte, di giorno, per me che spesso sono a casa perché svolgo un non lavoro. Non appartengono tutti allo stesso proprietario, Alberto? Assolutamente no. Tre situazioni diverse. Ormai vige questa formula per cui i diritti degli animali, non si capisce quale sia il diritto di un animale abbandonato in un appartamento, possa essere ritenuto quello comunque di disturbare le persone. Anzi, magari si sarà creata anche solidarietà fra questi tre proprietari. Non solo tra loro. Gira la voce che io sia una persona che non ama gli animali. Tengo conto che io l'unica volta che ho avuto un cane in vita mia l'ho avuto quando avevo ancora la nonna vivente, lo tenevo in campagna, dove ha vissuto molto sereno, molto più sereno di me, che vivo di fianco a questi tre proprietari di cani spesso abbandonati. Andiamo alle soluzioni, Alberto. Che cosa ha fatto? Intanto immagino che lei abbia parlato con questi tre vicini. Oltre ad aver parlato con i vicini, dove sono stato trattato anche a pesci in faccia, non ho potuto fare molto con il l'amministratore, perché banalmente se ne lava abbastanza le mani. Ho chiamato al contrario i vigili. I vigili, già oggetto a Parma di molte operatività discusse negli anni scorsi, con il mando della dei vigili, insomma. Vabbè, Alberto, questo adesso non è rilevante per oggi. Però è rilevante la risposta, che i vigili non intervengono, non ne vogliono sapere, dicono anche banalmente che hanno ben altro a cui pensare. Alberto, guardi, adesso da una parte ci aspettiamo anche lei si è accorato. Alberto, andiamo, visto che lei ci ha chiamato per chiederci dei consigli, presidente Bicca. Allora, Bicca, qui abbiamo una persona che ha anche parlato di problemi di salute che richiederebbero una certa condizione, appunto, di tranquillità per questa persona, no? Adesso si deve ridurre a presentare un certificato medico ai suoi vicini per obbligarli a, ma poi anche loro come potrebbero fare, per mollano il cane in casa, il cane abbaia tutto il giorno, insomma qua è una situazione straricorrente. Ribadisco quanto ho detto prima, non esiste un orario o un livello di rumorosità che possa essere consentito, quando disturba, disturba. Adesso bisogna appunto commisurare il contesto in cui avviene questa immissione rispetto a quello che è la normale tollerabilità. Mi stupisce che i vigili interpellati abbiano dato una risposta di quel tipo. In realtà sono proprio i vigili urbani che devono vigilare. L'estrema razio è questa, insomma. Sì, sicuramente. L'animale, tra l'altro, potrebbe anche essere, come è successo in molti casi a nostra conoscenza, allontanato coattivamente proprio dalle forze dell'ordine, quindi dai vigili urbani. Certo, bisognerebbe dimostrare che davvero sono molto nervosi per tutta la giornata e che infastidiscono in maniera esasperante. Certo, è una condizione proprio naturale per il cane. Il cane prigioniero, tra virgolette, dentro l'appartamento reagisce così. Quindi non è quello l'ambiente in cui deve vivere il cane, specie cane di grossa taglia. Certo. Quindi deve andare in campagna. Anche perché poi magari non sono molesti e nervosi tutti e tre nella stessa misura, magari però ce n'è uno un po' più infastidito dal fatto di rimanere solo rispetto agli altri due. E poi si aizzano uno all'altro. Ecco. Senta, no, detto questo, adesso questo nostro amico di Parma che non ce la fa più ed è proprio esasperato. L'amministratore di condominio dice non è intervenuto, quindi diciamo le sue qualità, la sua expertise da mediatore non l'ha esercitata. I vigili gli hanno detto così, capacità, mettere nero su bianco quello che succede. Le capacità negoziali dell'amministratore sono fondamentali. La soluzione ideale infatti consiste proprio nel sanare la situazione nella fase iniziale, quando ancora la vite non è giunta al parossismo. Quindi sicuramente l'amministratore può fare qualcosa, ma deve avere un ascoltatore dall'altro lato. Voi come ANAMI, ho visto, presidente, che consigliate sempre di evitare la citazione per danni, in quale caso però la suggerisce? Guardi, quando poi il fatto di essere inconsapevolmente dannosi, ecco, questo giustifica un atteggiamento rimissorio, ma quando c'è proprio l'intenzione di voler dar fastidio, allora sicuramente non c'è altra strada che certo. Quella. Poi ci sono anche degli elementi, nel rumore per esempio esistono i fonometri che possono essere utilizzati, ci sono dei casi, per esempio ne accennavate prima voi, nella cucina etnica, ecco lì i problemi noi li abbiamo risolti come? Molto semplicemente convincendo i gli abitanti di quell'appartamento a organizzare una sorta di buffet con i loro piatti e tutti sono diventati amici. Guardi, ne parlavamo con Nicoletta a microfono spento. Ci sono dei condomini in cui magari abitano dei ragazzi, qua a Milano è molto diffusa la convivenza in condominio con studenti universitari che naturalmente la sera dopo aver studiato tutto il giorno si vogliono divertire, invitano amici, fanno anche il karaoke. L'idea migliore è invitare i vicini di casa, non fare feste magari tutte le sere, però una volta a settimana invitare anche i vicini. Mirko da Milano ci voleva raccontare che il suo inquilino di sopra fa la lavatrice alle 6 del mattino, sbatte i tappeti di giorno, hanno il cane in casa, passa 3-4 volte l'aspirapolvere. Con questa persona non c'è dialogo. Se non c'è dialogo, però è uno che pulisce molto bene, chissà se viene a casa nostra. Esatto. Mirko, faccia così, guarda, gli lo chieda mandi se a vuole casa nostra. Esatto, se viene anche, visto che ha tutta questa impellenza di essere così attiva questa persona tutto il giorno, si faccia venire a dare una mano a casa sua. Adesso mi rendo conto anche che sdrammatizzare in questa maniera forse può far ulteriormente innervosire le persone, ma se non c'è dialogo non c'è. Abbia pazienza, Mirko, se la prenda a ridere e magari, ecco, in quelle ore in cui il rumore è particolarmente molesto, vada a farsi una passeggiata, vada al cinema e supporti un po' così. Presidente Bica, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Alla prossima per altri suggerimenti per una tranquilla vita di condominio. Adesso invece suggerimenti per un altro tema molto importante: vivere quanto più a lungo possibile in condizioni di salute ottimali. Ce la facciamo? Speriamo di sì. Dai, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da... A me le altre acque non fanno effetto, invece Rocchetta mi depura, perché Rocchetta vale di più. Cuore e denari. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Vi piacerebbe campare fino a 100 anni? Sicuramente tutti noi ci faremo la firma, no? A condizione però di essere perfettamente funzionanti, di stare bene nel corpo, nella mente, di essere autonomi, autosufficienti. Insomma, in una parola, di vivere, di sentirsi bene, di avere ancora il gusto della vita. Da sempre l'uomo ha cercato l'elisir di lunga vita e dopo tanti tentativi, come spesso succede, si è accorto che era lì, a portata di mano. E a proposito di mano, noi abbiamo oggi il piacere di stringere la mano, l'abbiamo già fatto durante la trasmissione delle strade, delle autostrade, a uno dei massimi esperti di cibo e longevità. Diamo il buongiorno al professor Walter Longo, direttore dell'Istituto di Longevità di Los Angeles e direttore del programma di ricerca Oncologia e Longevità all'IFOM di Milano. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Professor Longo, lei quanti anni si augurerebbe di vivere? Il Time ha scritto che potremmo arrivare sino a 142. Lei crede che sia davvero possibile questo traguardo? Ma il mio vecchio capo aveva scritto un libro che si intitolava, Roy Walford lui si chiamava, si intitolava il libro Vivere fino a 120 anni, quindi... Quello potrebbe essere un buon target. Quello potrebbe essere un buon target, sì. Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, quanti anni vorreste vivere nella vostra famiglia? Avete dei centenari? 800 24 00 24 349 238 6666. Ma professore, noi siamo programmati per vivere a lungo e bene? Perché quanto contano i geni, la familiarità, quanto la fortuna, quanto dipende invece da noi, da questo famoso, no, stile di vita che viene spesso tirato in ballo? Sì, diciamo che siamo programmati per riprodurci, quindi arrivare fino all'età di riproduzione. Ecco. Il resto diciamo che è un po' una serie di cose. E chi nasce con la genetica giusta, quindi ad esempio si sa che i centenari, le famiglie che hanno molti centenari tendono ad avere un grosso vantaggio genetico, fino a 20 volte più alto degli altri. E per il resto diciamo che il cibo è sicuramente il fattore numero uno, quindi l'esercizio fisico numero due, ma il cibo è sicuramente il numero uno. E quindi adesso sappiamo che la maggior parte delle malattie sono infatti dipendenti dalla nutrizione, quindi questa non è una cosa minore. Poi è ovvio che chi ha i geni giusti è più fortunato, è più protetto, ma ciò non vuol dire che chi ha i geni giusti non è neanche protetto dalla nutrizione. Per esempio, sappiamo che questi topi super longevi geneticamente vivono il 50% in più, ma se questi topi gli viene imposta la restrizione calorica, addirittura vivono il doppio. quindi anche il topo più longevo mai scoperto. Mm-hmm. Se lo tiene un po' a stecchetto, esatto, quindi tende un po' a prendere peso e vive molto a lungo, ma vive ancora di più se la dieta è ristretta in maniera normale. Non stiamo parlando di cose estreme, sì. Però lei è un'alimentazione da asceta, il topo asceta, il ecco. Topo asceta, però professor Longo, di questa dieta che dovrebbe garantirci di vivere a lungo e bene, perché dovrebbe ridurre il rischio di quelle malattie, vengono dette del benessere, ma sono sicuramente il diabete, la diabesità, penso anche però alle malattie cardiovascolari e ai tumori. Ne parleremo tra poco. Voglio dare la linea a Rosa da Taranto, subito. Perché abbiamo detto ai nostri ascoltatori di darci, no, la ricetta della loro longevità e di confrontarla con la sua. Vediamo, magari facciamo centro. Rosa, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Parlo. Io ho solo 62 anni, ho mia suocera che ha 93 anni, però volevo farle una domanda. Allora, mia nuora praticamente sta seguendo un nuovo tipo di alimentazione, il crudismo. Sì. Perché dice che si vive meglio, si allontanano le malattie, si vive più a lungo, si guarisce, si tolgono le infiammazioni. Vuole addirittura svezzare il bambino di 9 mesi con questo tipo di alimentazione. E volevo sapere cosa c'è di vero e se va tutto bene. E poi una cosa da chiederle. Cambi orari per la trasmissione, io l'ascolto di notte. Perché il giorno lavoro. Oh, mamma mia, però benedetto podcast. Ah, sì, ecco. Ha ragione. Faccio arrabbiare i vicini tenendo la radio alta, e mi raccomando, Rosa. Se professor Longo, Rosa, sentiamo che cosa dice il professor Longo. Attenzione, suocera e nuora. Intanto diciamo che i bambini è meglio, cioè una cosa che è chiara è che è molto pericoloso cambiare troppo, in senso soprattutto per i bambini. Quindi la cosa migliore per i bambini è fare un po' quello che è sempre stato fatto. Diciamo che l'italiano ha tra i record mondiali di longevità, meglio non rischiare per guadagnare 5 anni in più. Quindi ovviamente per gli adulti ci sono delle diete che funzionano, per il bambino assolutamente meglio non rischiare, quindi tenere tutto più o meno come l'abbiamo visto per generazioni e generazioni. Adesso per gli adulti ci sono molte di queste diete, la maggior parte non hanno vere basi, però ciò non vuol dire che adottando questo tipo di dieta non stia poi andando ad avvicinarsi alle diete vegane, pescetariane, che sono quelle di cui poi parleremo, che invece sono molto benefiche e infatti riducono le infiammazioni, riducono i fattori di crescita che promuovono il cancro, eccetera. Quindi adesso bisognerebbe capire esattamente cosa mangia, però se è una dieta che è principalmente basata su vegetali è nutritiva, cioè quindi ha dentro quello che serve giornalmente, perché il rischio per molte donne, soprattutto giovani, ma di tutte le età, quando si passa a queste diete estreme, quasi sempre c'è il malnourishment, quindi la malnutrizione, perché non ci si rende conto, ad esempio, che le proteine devono essere basse, ma non devono essere assenti o quasi assenti. E spesso e volentieri la domanda che faccio è: cosa hai mangiato gli ultimi 3 giorni? E mi dicono una serie di cibi che non contengono proteine. Quindi possiamo però chiederlo anche ai nostri ascoltatori che cosa avete mangiato gli ultimi 3 giorni, per vedere se che così approfittiamo del professor Longo. E tra l'altro possiamo ricordarci possiamo suggerire alla nostra amica di andare sulle pagine del nostro Cuore Denari Expo. Sì. Trova il profilo della vegetariana, che è curato dalla dottoressa Baroni e dal cuoco Alberto Berto. Troverà tutte le ricette, le indicazioni, e quindi in un passaggio di una dieta vegetariana a cui faceva riferimento il professor Longo, ma seguita da un medico, e quindi potrebbe evitare la carenza. A proposito di dieta vegetariana, secondo uno studio pubblicato lo scorso anno, le proteine fanno la differenza. Chi ne consuma troppo rischia di campare meno. La traduco così. È davvero così, ma troppo cosa vuol dire? Ci dia un po' dei... Intanto diciamo che è importante capire che questo non era il nostro studio sulle proteine l'anno scorso, non era semplicemente andiamo a vedere un po' i dati in giro e capire chi mangia cosa e chi gli viene cosa. È basata su 20 anni di ricerca, certo. Quindi tutta consistente per poi arrivare agli uomini negli Stati Uniti. Quello che poi significa per le persone, intanto c'erano due fasi, la fase prima dei 65-70 anni e la fase dopo. Sì. Nella fase prima dei 65-70 anni, quindi prima che l'anziano inizi a perdere peso e diventi fragile, sì. Allora il livello di proteine è 0,8 grammi per chilogrammo di peso, quindi 50 kg, 40 grammi di proteine al giorno. Di questo parleremo nella seconda parte della trasmissione con anche la dieta Mima digiuno. Ne avete sentito parlare? Chiamateci. Il segnale orario vi è offerto da e denari. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra. La scienza punta a togliere alla longevità il peso della vecchiaia. Siamo tornati a Cuore Denari, parliamo del legame tra nutrimento e longevità. Gli sforzi sono orientati, lo abbiamo anticipato nella prima parte di Cuore Denari, a eliminare proprio il decadimento fisico e mentale, a ridurre e limitare il rischio di malattie come il tumore, il diabete, le malattie cardiovascolari. Oggi a Cuore Denari un grandissimo esperto a 7 stelle, il professor Walter Longo, direttore dell'Istituto di Longevità a Los Angeles e direttore del programma di ricerca Oncologia e Longevità all'IFOM di Milano. Professore, stavamo parlando delle proteine del vostro studio, insomma le proteine fanno la differenza, chi ne consuma troppe rischia di campare meno, ma lei ha detto questo non vuol dire che non sia bene mangiare le proteine, bisogna mangiarle nella giusta quantità. Esatto. Sì, quindi giusta quantità, dicevo 0,8 grammi per chilogrammo, quindi una persona di 50 kg, 40 grammi di proteine al giorno, che non significa 40 grammi di cibo che contiene le proteine al giorno. Quindi, per esempio, i legumi sono una delle fonti migliori di proteine. 50 grammi di proteine dai ceci significherebbero 300-350 grammi di ceci, quindi un piatto, diciamo, pasta e ceci, sì, grosso. Da togliersi la voglia, come si dice. E fa bisogno di proteine. Professore, lei ci racconta una sua giornata tipo, lei cosa mangia? Allora diciamo che già ha lei è genovese, per cui ha già è vissuto fino a quando aveva 16 anni in Italia, è una vita bella quella, di un'esperienza, sì, molto bella, che sarebbe da raccontare, ma toglieremo tempo anche alla dieta Mima digiuno. Quindi insomma lei vive da tanto tempo in America, però i sapori della sua terra ce li ha ancora ben chiari, e quindi immagino li ricerchi anche lì. Sì, sì. Sì, intanto spendo 2-3 mesi all'anno, se non più, in Italia, quindi sono sempre qua. La mia dieta principalmente è sia tè verde che tè nero la mattina, con marmellata, quindi una colazione, diciamo, normale, e un toast di uvetta e cannella, mi mancano le parole italiane, e poi non mangio pranzo in genere prendo un espresso con latte di mandorla, e questo è il mio pranzo, e poi la sera invece mangio una dieta mediterranea fondamentalmente, quindi spesso pasta con tanti legumi, un po' quello che ho descritto prima, sì, ceci, piselli, fagioli, tanti verdure, anche spesso verdure congelate, sì, mescolate, che sono tra l'altro molto sane, ovviamente se prese da compagnia che le tengono, sì, che le diciamo, raccolgono la catena, e sì, le, cioè, congelino immediatamente, quindi quelle vanno benissimo quelle fresche, preferibilmente biologiche, però ognuno deve decidere cosa comprare, e quindi questa sia la mia dieta. Poi 2 volte a settimana pesce, cercando di evitare ovviamente i pesci con metalli pesanti, quindi minimizzare tonno, pesce spada e altri pesci che tendono ad avere alti livelli di mercurio. Non mi ha citato le uova. Io non mangio, niente di origine animale oltre al pesce. Ciò non significa che, per esempio, le uova è una cosa che mi viene chiesta sempre. Non significa che sappiamo che le uova fa male. Mm. Sappiamo che in generale chi è vegano, le popolazioni più longeve tendono a essere vegane o pescetariane. Ciò non significa che uno che mangia un'uova alla settimana necessariamente vivrà di meno. Quindi bisogna vedere un po' uno dove va a arrivare. Diciamo che la dieta ideale sarebbe meglio evitare quasi tutto quello che è animale, oltre al pesce. Poi, di nuovo, non siamo ancora sicuri che l'uovo faccia male, in effetti. Tante uova sicuramente fa male. Ma un uovo ogni tanto potrebbe essere anche una fonte di nutrizione anche positiva. Lei ha pubblicato uno studio, i dati erano sotto embargo sino a ieri e noi a Cuore Denari abbiamo il piacere di farceli raccontare direttamente quasi, da lei. Quindi, esclusiva. Ecco, dimostra che gli effetti positivi in termini di salute e di longevità di un tipo di dieta particolare. Partiamo dal nome, viene chiamata dieta Mima digiuno, quindi si tratta di una restrizione calorica, professor Longo, o che altro? O proprio il salto del pasto? Ci sono due versioni. Grazie. Intanto, ce n'è una giornaliera che è quella che vi ho appena raccontato. Cioè, per chi, e io l'ho adottata tra l'altro perché iniziavo a prendere peso come tutti, no? Quindi il mangiare diciamo due pasti al giorno, colazione, cena o colazione, pranzo, diventa un modo per self-regolare, no? Quindi è difficile mangiare tanto se mangi una volta sola al giorno. E quindi questo ha funzionato per me, ma funziona per tantissime persone. Di nuovo, occhio a non diventare malnutriti. Invece questa cosa qua, sono di nuovo 20 anni di ricerca, dove siamo arrivati volevamo minimizzare la difficoltà di fare queste cose. Quindi, ad esempio, la restrizione calorica cronica non funziona, è quella su cui lavorava il mio vecchio capo Roy Walford. Perché? Perché diventi quello, uno scheletro, che è andato nel deserto, quello che è andato nella biosfera 2, esatto. Mm. Perché chiamala come si chiama, biosfera 2, biosfera 2. E quindi diventi uno scheletro ed è anche pericolosa la restrizione calorica. Allora, questa dieta, in effetti, ad esempio nei topi non c'è restrizione calorica. Cosa intendo dire? Che abbiamo dato ai topi questa dieta per 8 giorni al mese. Quindi per 8 giorni al mese andavano da una dieta normale, relativamente non sana, a questa dieta qua. E poi tornavano alla dieta normale. Però quando tornavano alla dieta normale mangiavano di più. Quindi alla fine non c'era restrizione calorica. Mangiavano esattamente uguale per mese. E questo ha causato nei topi una serie di vantaggi straordinari, tra cui l'estensione della vita, rigenerazione di molti sistemi, diminuzione del cancro di circa il 50%, miglioramento delle abilità di memoria, cognitive, memoria e learning. Adesso mi mancano un po' le parole italiane. No, però Deborah le sa apprendimento. Apprendimento, esattamente. Vedi che. Apprendimento. E quindi, diciamo, senza restrizione calorica, però selezionando dei cibi, cioè noi cosa facciamo in pratica? Sappiamo che i cibi controllano i geni e selezioniamo solo gli ingredienti che fanno credere al sistema che sta non mangiando, anche mangiando, ok? Quindi lo ingannate un po'. Esattamente, sì, inganniamo il sistema e quindi ci sono una serie di cose che per la persona rendono la dieta per la persona relativamente normale. Ovviamente non è come mangiare i tortellini o le trofiette al pesto, però è una dieta fattibile. Infatti abbiamo appena finito lo studio clinico, tra l'altro abbiamo finito quello su 70 pazienti, di cui non posso parlare, ma posso parlare di però cui... torna Protorno, a parlare dei 70. Protorno. E abbiamo pubblicato ieri quello sui primi 19 controlli, quindi 38 persone, e abbiamo visto intanto che la compliance, quindi l'abilità di finire i 3 cicli di 5 giorni al mese nel caso degli uomini, era del 95%, anche se ci aspettavamo un 50%, quindi ci aspettavamo che le persone ci avrebbero detto: guarda, io sta cosa qua l'ha fatta una volta, e per basta. Favore, non mi... invece 95%, quindi questo ci ha sorpreso molto. Tra l'altro gli unici che non sono riusciti a finirlo sono state due ragazze molto giovani, gli altri che andavano dai 20 anni ai 70 anni l'hanno finito tutti tre cicli, e anche in maniera relativamente facile. Quindi 5 giorni al mese di dieta che più o meno ha metà delle calorie di quelle normali. Adesso noi pensiamo che questo possa, anche in base ai dati che abbiamo visto, possa durare in effetti 2, 3, 4 mesi. Quindi l'abbiamo fatto una volta al mese, ma pensiamo che per la maggior parte della popolazione, soprattutto italiana, sia una cosa fattibile 2, 3 volte all'anno. In pratica quindi si consumano quegli alimenti che ingannano, no, i nostri geni. Esatto. Che ce li dice quali sono? E poi si riduce naturalmente un po' la portata, cioè concretamente che cosa si fa? Sì, intanto dico che concretamente la cosa di ogni giorno che vi ho detto prima, del pranzo, la può fare chiunque senza medico, eccetera. Anche se è buono parlare con un medico o un dietista per capire che non ci siano malnutrizioni. E questa qua invece deve essere esclusivamente fatta col medico, quindi vi dico adesso molto in generale, ma non voglio dare ricette perché poi con le ricette viene anche l'improvvisazione, cioè ognuno si crea la sua dieta. Però in generale è alti grassi, bassi zuccheri, bassi carboidrati, zero zuccheri e basse proteine. Questa è l'idea generale. La formula. E alta nutrizione, quindi alto livello di nutrizione, ma bassi carboidrati, basse proteine, alti grassi. Grassi ovviamente di un certo tipo, questo è quello che dico. Però di nuovo, non da fare senza il medico, perché faccio un paio di esempi. Un diabetico che insieme a questa dieta prende l'insulina, si inietta l'insulina, può anche morire. Cioè, ecco, per darvi certo, la peggiore delle ipotesi. Certo. Noi infatti vogliamo fare una precisazione, anche una raccomandazione. Come diceva il professor Longo, non tutti sono nelle condizioni di salute sufficientemente buone per farlo. Le ripercussioni possono essere anche molto serie, non si scherza. La restrizione calorica, lo sappiamo, può avere effetti collaterali seri, perdita del ciclo mestruale nelle donne, osteoporosi, sterilità, deficit immunitari. Professore, lo diciamo anche perché non vogliamo mandare messaggi che potrebbero essere fraintesi, e penso alle ragazze ossessionate dalla linea, dal magro e bello. Sì. Attenti però, ecco. Attenti però a non fare un po' quello che abbiamo prima incontrato quando abbiamo iniziato a parlare di queste diete per l'oncologia, cioè che in effetti ci sono, perché tu hai menzionato l'osteoporosi, sì. No? In effetti nei topi vediamo che dopo questi cicli di digiuno, diciamo di dieta digiuno, di mima digiuno, che iniziavano a mezza età, la densità degli ossi è aumentata, ok? E pensiamo che sia proprio la rigenerazione a farla aumentare. Quindi dico, attenti a non usare l'intuito per fare le decisioni. Le decisioni devono essere fatte in base a scienza e medicina, quindi studi clinici, una serie di studi base e anche studi molecolari per capire cosa che sta cosa succedendo. Succede. Quindi anche se uno immaginerebbe, se faccio questa dieta tre volte all'anno, per esempio noi abbiamo fatto vedere l'anno scorso col sistema immunitario, cioè uno dice vabbè, non mangio, divento più debole. Esattamente il contrario, non mangi, le cellule staminali immunitarie del midollo osseo attivano, si iniziano a replicare e riescono a rigenerare e ringiovanire il sistema immunitario, quindi il sistema immunitario si rafforza. Stessa cosa che stiamo adesso vedendo con le ossa. Quindi da un lato c'è la persona anoressica che assolutamente deve andare a fare il digiuno, eccetera, e in genere nessuno dovrebbe andare a fare il digiuno finché non parlano col medico. Dall'altro lato c'è il dire non fare ste cose, che l'errore che fanno una percentuale di medici che magari non sono informati su questo, non fare queste cose assolutamente perché ti danno l'osteoporosi, certo, o perché ti indeboliscono. Queste sono cose che ormai sono dimostrate che non sono reali. Sì, diciamo, esatto. Pian piano ci sono delle cose che vengono dimostrate. Questa è una di quelle urban legends. Traduzione leggende metropolitane, che spesso non sono vere, sì. Andiamo ai nostri ascoltatori. Abbiamo Vittorio, Francesco e Franz. Dove vuoi andare, Deborah? Stavo pensando a Franz perché è in pole position. Franz, buongiorno, si è candidato da un bel po' di minuti ad intervenire. Benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, io da un po' di settimane ho visto una trasmissione in TV e sto assumendo i germogli di tanti tipi di semi diversi, diciamo broccolo, ravanello, non so tanto. Lo aggiunge alle insalate. Sì. Ho avuto, diciamo, degli effetti positivi, diciamo, sul mio organismo e anche a livello mentale. Poi mi sono, diciamo, germogliano le idee, vero? Franz? Sì, sì. Già nel giro di poche settimane lei ha notato dei risultati. Ci dia la ricetta, sì. Però. Sì, sì, infatti poi mi sono incuriosito un po' di più perché appunto ho comprato un libro e ho visto anche che ci sono dei riscontri scientifici anche su una popolazione, in particolare gli Hunza, una popolazione appunto di alcuni secoli sì. fa, Franz, su cui appunto andiamo al dunque. Sì. No, appunto volevo appunto chiedere al professor Longo se lui ha appunto esperienza di germogli, germogli e longevità, scientifiche sul germoglio. Ma sicuramente è un tipo di cibo che è molto positivo, quindi assolutamente io andrei avanti con questo. Adesso ci sono anche degli studi, soprattutto quelli di Frank Madeo in Austria, che fanno vedere che alcuni di questi germogli potrebbero avere dei ruoli di modulazione dell'epigenetica, quindi del modo in cui i geni si attivano e disattivano, e particolarmente potrebbero attivare dei sistemi protettivi. Quindi siamo ancora all'inizio. Però questa area di ricerca sembra molto promettente, quindi di identificare ingredienti in questi germogli che sono regolatori dei geni anti-invecchiamento. Professor Longo, stavo pensando, lei ha detto: io ho iniziato a fare questa dieta perché stavo ingrassando, no? E quindi di solito quando uno ingrassa mette su pancia. Sì. Possiamo considerare quindi la circonferenza addominale come la cartina tornasole del nostro stile alimentare e anche eventualmente di una dieta che punti a contrastare l'infiammazione? Quindi potremmo arrivare a dire che la pancia piatta può essere un possibile indicatore, lasciamela dire così, di una longevità? No, non è un possibile, è un chiaro regolatore di longevità. Ci sono una serie di studi che sono stati fatti che fanno vedere aumenti elevati anche di 2-3 volte di malattie cardiovascolari, di diabete e anche di mortalità. Quindi adesso l'infiammazione è una cosa diversa perché... E questi sono studi ad esempio di Sam Klein e altri che fanno vedere che tu puoi essere un anche obeso sano, ma puoi essere un magro infiammato. E quindi anche lì è molto importante, come dicevamo prima, la selezione dei cibi. Quindi questa idea della dieta mediterranea, sì, vabbè, le cose le sapevamo già, mangia un po' quello che mangia, tutto in moderazione. Queste sono cose che portano poi ha una distribuzione di salute che è completamente diversa. Cioè c'è chi pensa di essere sano, ad esempio nel nostro studio clinico pensavamo che tutti erano sani e poi abbiamo visto che più o meno la metà avevano comunque dei problemi abbastanza seri, inclusi l'infiammazione. Sì, reactive protein era elevata in più o meno un terzo di questi pazienti, questo è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Quindi è importante, la circonferenza addominale è fondamentale. Ciò non vuol dire che basti per garantirti la salute e quindi devi essere magro o in forma, diciamo, ma anche con gli ingredienti giusti. Allora andiamo a Francesco da Milano, sì, rapidissimamente prima di chiudere. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a voi e grazie. Niente, volevo chiedere, le diete a base alcalina possono far bene nel caso delle infiammazioni tipo, che possono essere infiammazioni della pelle, delle ossa, possono preservare appunto delle infiammazioni e magari migliorare la qualità della vita? Professor Longo. La risposta è che non lo sappiamo, e di nuovo, ovvio che se uno ha un problema e la dieta alcalina glielo risolve ed è l'unica cosa che glielo risolve, è difficile dire non farla. Oltre a quello, invece, meglio tenersi con le diete, di nuovo, che sappiamo il fattore, diciamo, il denominatore comune di tutte le cose che sappiamo che funzionano. E uno dei denominatori comuni che noi usiamo sempre sono i centenari. Cos'è che mangiano i centenari? Di Okinawa, di Loma Linda, della Grecia, del Sud Italia. E la dieta alcalina non è una cosa che fanno. Grazie al professor Longo per essere stato con noi. Adesso verrà a riportarci il prossimo studio in anteprima mondiale, direi. Sui 70, esatto. Sugli altri 70. Adesso ci faremo fare una foto con lui, che certamente, così poi ve lo facciamo conoscere anche di persona. Speriamo che non mi voglia misurare il giro vita, perché sennò vengo bocciata seduta a stanza. Non è vero. Professor Longo, grazie. Grazie molto. Buona giornata. Buon rientro negli Stati Uniti, quando lo farà, naturalmente. Speriamo di tenercelo qua il più possibile, invece. E noi torniamo lunedì. Buon weekend a tutti!